4. Ascolta, leggi e completa gli spazi vuoti. È mattina. Isabella e Ania sono in autobus e stanno parlando delle cose da fare. Oggi ho molte cose importanti da fare. Anche io. Devo anche andare in banca prima di andare al lavoro. Dov'è la tua banca? In via dei Pini, vicino alla profumeria Bianchi. Incontro dei colleghi a teatro e passo proprio lì davanti. Posso andare io per te? Magari, Isabella. Devo solo fare un versamento. Ho i soldi e il numero di conto corrente proprio qui. Bene, prendo tutto io. Sei gentile, Isabella. Ma se trovi tante persone in fila prima di te, non voglio che aspetti. Non è un problema. Sono in anticipo. Se ci sono difficoltà, posso chiamare il tuo ufficio e se tu non puoi rispondere, lascio un messaggio. Grazie mille. Di niente. Che cosa devi fare oggi in ufficio?